6, 7, 8, 9, 10. Prova radio, prova, prova. Vediamo un po' come si accende. A posto. Allora, slider, aspetta, mi ero messo gli occhiali. Slider, l'occhio della frotta. Se sono senti, senti a loro, anche in piedi, un attimino. Allora, slider, manetta, muovo, muovo, muovo, muovo, muovo, muovo. Il mio nonno nuovo ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola ola manettone manettone manettone cambio passo compro e vendo e Gianmarco però Gianmarco ogni tanto quando muovi la leva lo sto portando da zero a zero lo sto portando e manca però tu manchi, guarda, se c'è il dito sopra prima non ce lo potevo appoggiare, sto scendendo, scendendo, scendendo, scendendo, salendo, salendo, salendo, salendo, salendo, salendo, sto. Cosa manca? Tua sorella manca. Sali, sali e poi scendi. Sale scende la marea. Cambio. Vai là, dai. Sì, io.